an underwater love. L'amour, la passion, c'est rouge, un bacio. Rosa. Fra le parole d'amo, love, passion, come with me underwater. Never let me go.